vai bambina mia. Dove vai anima mia? Che se un giorno tornerai, non ti riconoscerò. Non mi riconoscerai, ma il treno parte già, corre verso città, tu te ne vai, mi saluti contento e non lo sai che sei già là. Telefonerai e forse non ti capirò, e forse non mi capirai, ma il treno parte già, non corre verso la città, tu te ne vai, non mi saluti e capisco che lo sai che sei già là. Vedo sparire, tu sei già